Guinea Guinea Guillam, Saga White Black, La Industria Inc. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna said too much. But that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E rieccoci in onda, sempre con Sono solo nuvolette. L'ha detto il titolo, l'ha detto la nostra sempre bellissima sigla, che a me manda un po' in brodo di giuggere, nerd. Ma oggi siamo meno nerd del solito, ma molto più di approfondimento. È un piacere avere qua Dino Aloi, perché vignettista, editore e autore. Perché già solo chiacchierando, arrivando qua, è emerso una mole di informazioni di cui vorrei approfondire, quindi ti userò da enciclopedia della satira disegnata. Per quello che posso. Ok, comunque grazie Dino di essere qui. Grazie a te. La satira disegnata, cioè le vignette, è quasi un genere, un linguaggio a sé rispetto al fumetto tangente, ma non collegato. Alcuni personaggi, alcuni artisti molto bravi vivono in entrambi i mondi, però non necessariamente sono collegati. Infatti molti dei nomi noti della satira magari sono anche slegati e hanno anche più riflettori rispetto a nomi del fumetto. Penso per esempio a un Vauro. Certo. Nel tuo caso, tu personalmente ti senti comunque più autore di satira, umorista o autore di fumetti? Hai mai conciliato le due anime? No, allora io quando ho iniziato avrei voluto fare i fumetti. Ok. Come idea, quando avevo 13 anni, in realtà questo perché copiavo Iacovitti, per cui okay. Ovviamente era l'idea della storia fumetti. Poi mi sono reso conto che in realtà mi interessava molto di più la vignetta, perché in un quadro condensavi una situazione. Ok. E anche per capacità di disegno, peraltro, perché comunque per fare i fumetti devi ragionare su altri parametri. A me interessava molto proprio la battuta più ancora che il disegno, per cui mi sono poi, diciamo, specializzato tra virgolette in quello che è proprio la vignetta umoristica, satirica e vari. E poi certo l'amore per il fumetto è rimasto, però anche per le letture, per tante cose. Adesso facevi giustamente l'accenno ad autori come Altan o come Sergio Staino, che sono straordinari vignettisti, però nello stesso tempo sono anche grandi autori di fumetti, per cui conciliano le due anime. Sì. Abbiamo esempi nel passato, mi viene in mente Attilio Mussino, che faceva le vignette per il Fischietto, un giornale torinese di satira, però in realtà poi nello stesso tempo era un fumettista per il Corriere dei Piccoli, primo fumetto italiano, Bilbo il Bull, pubblicato sul Corriere dei Piccoli nel 1909, e ancora grande illustratore, forse il più grande illustratore di Pinocchio, per cui era un artista che riusciva a manifestare il suo sapere, le sue tecniche in moltissimi campi. Ok, però mi pare di capire che sono comunque due linguaggi molto distinti. Sì, beh, sicuramente sì. Poi, come dico, alcuni hanno la capacità di conciliare le due anime. No, beh, l'eclettismo è spesso una parte dell'artista, però non devi mescolare quasi sempre. Anche l'umorismo a fumetti si snoda nel passaggio tra le vignette. Sì. Su questi microfoni quasi sempre finiamo per citare Schulz, Watterson, certo, come maestri della striscia, quindi 2-3-4 vignette, sì, in cui elemento iniziale, opposizione, gag, sì, e quello è un linguaggio in sé. La vignetta è ancora più sintesi. Sì. Che, tra l'altro, la strip è un bel passaggio di mezzo, perché c'è la vignetta in inquadratura unica, strip appunto 2-3-4 quadri per raccontare una storia, e poi il fumetto invece che la narrazione proprio per immagini. Esatto. E quindi sì, sono tre modi diversi di affrontare. Poi molto spesso la strip è umoristica, per cui è veramente a metà, perché prende da quello che è l'umorismo, però prende anche dal fumetto per ciò che è la narrazione. Certo. Tu hai mai fatto strip? Qualcosa, sì, ma proprio da ragazzo. Poi, come dico, in realtà quando ho cominciato a pubblicare le vignette, e ho iniziato, insomma, giovane, avevo 16 anni, e in realtà poi mi sono proprio specializzato solo nella vignetta, anche perché era lo spazio che ti offrivano poi, di fatto. Sì. Cioè, c'era lo spazio per un disegno, già per una strip sarebbe stato impegnativo. E quindi poi ho sviluppato quello, e poi lavorando poi per quotidiani nazionali anche, quindi andando poi sullo sport, sulla satira, sulla satira di costume. E devo dire che, ecco, oggi è la cosa che comunque, non soltanto perché ho fatto questo, ma è quello che mi piace di più e in cui mi riconosco di più come autore. E credo che lo stessa maggiore, che poi nobiltà, a volte su questi microfoni discutiamo sempre un po' della percezione dell'uno e dell'altro linguaggio, nobile o meno, però il fatto che la vignetta, come nella prima pagina dei quotidiani in Italia, si è ritagliato uno spazio importante, che magari il fumetto invece ha avuto il suo mercato, fumetto umoristico, fumetto realistico, ma parallelo. Quindi di per sé il legame con i quotidiani forse è sempre stato un po' ciò che ha nobilitato la vignetta. Diciamo sì, questo per quello che compete la concezione della satira più moderna e contemporanea. Okay. Perché nella realtà i giornali umoristici che nascono in Italia nel 1848, poi in realtà 47, però Jack, il grande storico, lo fa risalire al 48, c'è stato un piccolo caso sempre a Torino del 47. Ma nella realtà erano giornali di informazione satirica e umoristica che cominciano a mettere una tavola disegnata in terza pagina, giornali quotidiani spesso anche di quattro pagine, e comincia a comparire in terza pagina la vignetta. Sarà poi negli anni successivi la terza pagina cultura, in realtà deriva da questo, quindi per cultura, perché era una cosa che si staccava anche un po' dal contesto giornalistico. Allora c'è un grande legame tra giornalismo e disegnatori e vignettisti. Faccio un altro esempio torinese, Casimiro Teia, un grande autore del Fischietto, che poi nel 1856 inventa il Pasquino, quindi praticamente un suo giornale su cui fa collaborare altri autori, e lui è uno che in qualche modo precorre il fumetto. Perché comincia a fare narrazioni disegnate, e che collocherei tra il fumetto e il carnet de voyage, cioè andava, faceva un viaggio e ne faceva il reportage, ovviamente cogliendo l'aspetto umoristico che aveva visto. Ti faccio un esempio su Casimiro Teia: era veramente molto importante, perché fu invitato come uno degli unici tre giornalisti italiani invitati a questa cosa all'apertura dell'Istmo del canale di Suez. Caspita. Quindi stiamo parlando di qualcosa di molto grande. Oggi un vignettista boh, forse viene invitato a qualche conferenza, a qualche convegno, ma non è considerato un giornalista, mentre lui lo era, per cui un giornalista che riusciva a esprimersi attraverso il disegno. E tra l'altro parliamo di anni? E qui siamo in metà 800, 1880 più o meno. Cioè, non si è fatto risalire l'anno di nascita del fumetto al 1895 come al cinema più o meno. Esatto, in realtà qui stiamo parlando di prima. Qui stiamo parlando di molto prima. Ma c'è già un caso di uno svizzero, Topfer, che già nel 1830 in qualche modo fa dei fumetti sempre umoristici. Quindi già in qualche modo ci sono delle genesi, no? Che partono un pochino prima. Però... per me questo è molto interessante, anche un po' di orgoglio piemontese, che a monte della data di origine del fumetto con Yellow Kid c'era già qualcos'altro ed era in Piemonte. Sì, era in Piemonte. Il Piemonte è stato sempre una terra molto ricca di autori. E io ho avuto il piacere e la fortuna, oltre a organizzare mostre di carattere storico, no? Anche di fare due piccole enciclopedie, chiamiamole enciclopedie, che è un termine altisonante, però è una raccolta di... E una dedicata al mondo della vignetta umoristica e una dedicata al fumetto. E devo dire che mettendo insieme, partendo ovviamente dal 1948, mettendo insieme gli autori dell'uno e dell'altro, togliendo i doppioni, perché alcuni inevitabilmente, come dicevamo prima, però credo che siamo oltre i 250 autori, per cui è tanto per una regione. Ecco, questo ha stupito me per primo, nel senso che andando poi a indagare più in profondità, e con le conoscenze o anche semplicemente con suggerimenti di altri autori che ti indicano altri autori magari non ancora famosi ma già al lavoro, viene fuori un patrimonio enorme che riguarda proprio fumetto e satira. Quello il Piemonte, quindi, è una terra da non trascurare. Ma credi che abbia qualcosa a che fare con quella sorta di umorismo proprio di costume, quasi genetico dei piemontesi, dal Gaffte la Nata di Umberto Eco, quasi istituzionalizzato da Umberto Eco, o all'understatement piemontese, l'altra cosa su cui a volte si scherza, Pisa Picurt, tutti i vari. È qualcosa di legato, secondo te, anche all'attitudine a vedere le cose in un lato ironico, grottesco, un po' forse anche per vederle in modo obliquo, per anche, non dirle anche direttamente. Anche un po' sarcastico. False Curtis, primo sì. Tesi False Curtis. E questo sicuramente sì. Poi può essere anche un po' un'antitesi al fatto che qui comunque avevamo il re. Sì. Cioè, per cui in qualche modo, cioè così come Roma sviluppa, no, un certo tipo di umorismo, sì, magari anche più popolare se vuoi, sì, perché comunque c'è, risiede il papato, probabilmente qui il fatto che ci fosse la monarchia, per cui ci fosse l'istituzione, fosse Torino capitale, poi soprattutto in quegli anni, forse in qualche modo fa sì che nasca anche qualcosa che va a commento, no, del potere, cioè la satira poi di fatto è qualche cosa che critica il potere. Esatto, ma un giullare, una sorta di versione della modernità del giullare. C'era Giorgio Cavallo, che è stato un grandissimo vignettista, lui ad esempio ha sempre detto un'espressione che io trovo bellissima ancora oggi, lui l'ha detta negli anni 50, ma diceva, quando gli chiedevano cos'è la satira, lui diceva in fondo la satira è un suggerimento a squarciagola, cioè nel senso in realtà tu vai a colpire, se puoi far incazzare sei anche contento, ma non necessariamente, cioè in realtà tu stai dicendo un qualche cosa e stai cercando di mostrare un'angolazione differente. E poi ci sono personaggi come Altan che fanno addirittura filosofia, cioè con la satira, però già il fatto di riuscire a colpire nel segno, beh, è già qualcosa di molto importante. Beh, direi che puntata si promette interessante, visto che abbiamo tanto di cui parlare. Per una volta ci allarghiamo ancora tangenzialmente in questo ambito che tocca la cultura pop, che però è la satira, che tocca il fumetto, però non è, e che ha una storia antichissima, più antica del fumetto stesso. Quindi è un piacere, ne parliamo ancora. Adesso lanciamo la prima canzone e anche qui siamo un po' più rilassati come contenuti dopo il metallo della settimana scorsa. Ogni tanto scappa un po' di metallo, invece questa settimana più tranquilli. Quindi Land of Thousand Dances nella versione dei Commitments. 1 2 3 1 2 3. Roll over on your back. sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Siamo partiti tranquilli in un certo senso, perché aveva comunque un bel gheddu, per dirlo alla piemontese, questo pezzo. Poi tra l'altro un classico del soul rhythm and blues nella versione dei Commitments, che anche lì come rilettura dell'immaginario del soul fatto dagli irlandesi, visto che il bellissimo film di Stephen Frears e il libro di Roddy Doyle. Ok, i neuroni sono tutti allineati e tutto torna. Dino Aloy, è un bello averti qua, perché c'è tantissimo da dire e non ci basterà una puntata sola. Però la prendiamo larga. Abbiamo parlato della distanza tra fumetto e satira, e mi piacerebbe parlare di un po' di te come autore e curatore di mostre. Autore e curatore di mostre, hai detto che tu comunque ti consideri più alla fine la sintesi per te, la vignetta e ciò in cui ti sei ritrovato. Sì. Visto che arriviamo anche, la trasmissione è trasmossa anche nel centro storico di Settimo, quindi come chiacchieravamo con Filippo in regia, che tra l'altro salutiamo, tu hai fatto una storia di Settimo a fumetti, hai alcune opere, abbiamo sbirciato prima, hai una bibliografia piuttosto fitta anche qua in biblioteca. Sì. C'è un'opera in particolare in cui ti riconosci in particolare, che hai sentito di più? So che sono tante, quindi, e poi trovare un bambino più bello degli altri è sempre difficile, però magari legato alla città, questa storia del fumetto di Settimo a fumetti è stata per esempio qualcosa di particolare, di interessante? Sì, molto. Devo dire qua, intanto sono contentissimo di essere di nuovo a Settimo dopo un po' di anni. Come dicevi prima, appunto, ho organizzato delle mostre qui per 10 anni, dal 95 al 2005, quindi è legato anche a un bel periodo, no? Ok. Non c'era ancora la biblioteca Archimede? Non c'era ancora la biblioteca Archimede, c'era Eugenio Pintore che la stava costruendo, e poi insieme a Franco Ferraresi, che era un altro amico qui di Settimo, un dirigente di Settimo, abbiamo messo in piedi queste mostre, che erano anche legate alla Fiera del Cavolo, poi tra l'altro, quindi la fiera storica 1848 con editto del re, per cui anche un qualcosa che diventava divertente da prendere in giro con le vignette. Okay. E sì, devo dire che legato a Settimo, due sono le cose forse più divertenti anche per noi come autori che abbiamo fatto. Una è stata la storia di Settimo a fumetti, dove io ho scritto un po' la sceneggiatura, e Milko Dalla Battista, un bravissimo disegnatore torinese, ora è andato in Liguria ma comunque rimane torinese, e ha realizzato, devo dire, magistralmente. E ne abbiamo fatte anche due edizioni, nel senso che c'è stata fatta la prima edizione e poi la seconda, che non è stata fatta a colori ma con i grigi, cioè la prima era al tratto, la seconda con i grigi, che è un passaggio tecnico che però l'ha migliorata molto, anche cambiando il formato. E poi con degli ampliamenti, era stata fatta 4-5 anni dopo, per cui avevamo fatto anche degli aggiornamenti su quello che era la storia di Settimo locale in progress. Okay. Quindi quella sicuramente è molto bella, sono molto legato a questo lavoro. E l'altro è stato anche il mercante in ferro dei coi. Cioè abbiamo fatto tutta una serie di antichi mestieri di Settimo, quindi anche cose, il gamberaio per dire, mi viene in mente, illustrate da 4 artisti, erano appunto Lo Monaco, lo stesso Milko Dalla Battista, Gianni Chiostri e Carlo Baffi di Milano, e hanno fatto queste 40 vignette che poi sono state montate a mazzo di carte. Quindi molto divertente anche questa. Queste erano mostre e poi diventavano anche dei piccoli gadget che poi venivano offerti dalla città. E poi erano giocabili, queste carte erano giocabilissime. Assolutamente. Abbiamo fatto anche un album di figurine. Ah, ok. Quindi il Settimo mestiere, per cui era proprio concepito per far sì che venisse poi la figurina venisse appiccicata dai ragazzi. Poi da cosa mi dicono, e non è la prima volta perché ho fatto un paio di albi di figurine, in realtà vengono requisiti dai genitori, incollano le figurine perfettamente e li mettono via senza far giocare il ragazzino. È quello che sta succedendo a tanto, anche adesso, tanto fumetto, per esempio Bonelli, che comincia ad avere tanta storia sulle spalle, che esistono i collezionisti che ne comprano sempre due albi, perché uno è incelofanato e l'altro per la lettura. Esatto, sì, e quindi questo è tutto un mondo intorno al fumetto che non sempre si conosce, invece è interessante. E questa anche l'idea di creare già questi piccoli gadget, penso che fosse anche molto divertente. Sì, sì, molto molto divertente, e era bello proprio farli, concepirli, perché poi c'è una progettualità dietro che va avanti un paio di mesi, anche 3 a volte, e quindi vedere proprio vedere la nascita, no? Di un qualche cosa che si sta costruendo, in realtà un po' come la mostra, anche la mostra parte da un'idea, poi si sviluppa, non un po' come tutte le cose, quindi è bello, sono belli i passaggi. Tu hai curato anche più di una mostra qui a Settimo, poi In generale, però... Sì, in generale ne ho curate più di 300. Ok. In realtà, cioè non so... Riesci a ricordarle una per una, ce no, l'avrei notate. No, no, cioè, anzi devo... Se ti arriva qualcuno e ti dice, ti ricordi quella mostra là? No, sì, se mi dici quella mostra là, sì, però okay, cioè, dovessi andare a ricostruire, no, non ce la faccio. Perché... E credo che umanamente... Ricordo la prima, 1981, in quello okay, che era il centro non in corsi c'ero, Cassa di Risparmio di Torino, okay, e dove avevamo fatto una mostra su, diciamo, proprio già sul fumetto e l'umorismo, mm, più umorismo e satira, e l'aveva voluta il direttore della Geyser dell'epoca e mi aveva detto, tu che sei già un po' nel campo, proviamo a fare una mostra su questo argomento, quindi quello era il 1981, per cui stiamo parlando veramente di un secolo fa, giustamente. Quanto è difficile allestire una mostra? Perché poi sembra una banalità, ma c'è tutta una serie di elementi, un percorso, il commento alle opere, il catalogo poi. Certo, cioè, che è fondamentale. Poi, poi arriviamo alle edizioni. Esatto, poi arriviamo alle edizioni, ma ne parliamo dopo. Per quello, allora, la mostra, beh, intanto una mostra si può fare in 100.000 modi, e questa è la cosa più bella. Qual è quello che però viene sempre trascurato? Perché vedo in tante occasioni, magari poi capita, viene chiamata mostra, ma magari poi non sono gli originali, già questo è problematico in genere, sì, quando non sono gli originali. Però poi cos'è su cui cadono tante situazioni che magari vengono chiamate mostre e non lo sono? Ma vabbè, quello poi è personale, però sì, ti posso dire il mio punto di vista. Io da quello che vado... Diciamo i peccati, ma non i peccatori. Sì, no, no, certo. Ma io quello che vado a cercare in una mostra, ma anche in una mostra d'arte, perché poi il criterio è lo stesso, è proprio la curatela. Cioè, si confonde a volte il mostrare con l'esporre. Okay. Cioè, mostrare, allora, chiunque può dire, mi dai 10 disegni. Te li do, poi li posso mettere più o meno bene in mostra a seconda, sì, di ciò che è un allestimento. In realtà esporre delle cose vuol dire creare un percorso mentale dietro che deve avere un curatore, e attraverso quello deve cercare di comunicare qualcosa al pubblico che sta andando. Okay. Allora, io ragiono su quello che piace a me quando organizzo una mostra. Per forza. E come ragiono da pubblico? Quando vado a vedere una mostra mi interessa uscire avendo imparato qualcosa. Mm. Ecco, questo è il criterio che cerco di mettere all'interno. E la parola curatela è un po' perduta, cioè si è perduto un po' il concetto insieme alla parola? Un pochino, sì. Poi ci sono curatori... Quantomeno nella percezione di massa, poi è, sì, chiaro che... Nell'arte no, devo dire, ecco, nell'arte c'è la figura del critico che in qualche modo spesso è una figura forte e quindi impone giustamente una visione, certo, che è la sua, non è la, certo, visione giusta, ma è una delle visioni. Allora tu vai a vedere una mostra curata da Sgarbi e saprai dove stai andando, così come con Daverio. La stessa cosa dovrebbe essere un po' nel nostro campo, mentre a volte capita che ci siano un po' delle accozzaglie. Ecco, questo è quello che uno può vedere, poi per carità con grande bravura di un sacco di gente. Io ho cercato di ritagliarmi questa nicchia tra lo storico, storico inteso come anche proprio come curatore, cioè perché parliamo di mostre che poi sono didattiche e si occupano di storia, e faccio un po' lo storico della satira cercando di ricollocare in qualche modo, per cui principalmente ricontestualizzo immagini che sono state pubblicate molti anni fa e di conseguenza oggi quasi inedite. Ecco, questa è un po' la logica che mi muove. Beh, credo che dire in che mondo è stato pubblicato, dove era uscito, qual era il pubblico di una determinata immagine è il 50% della sua fruizione, della sua comprensione. Sì, sì, soprattutto poi quando ti rivolgi a non addetti ai lavori. Esatto. Ma la mostra è per non addetti ai lavori, l'addetto al lavoro compra il libro. Per, esatto, cui è un po' questo, no? A volte da fare. Trovi mostre d'arte anche dove hai delle pareti intere di testo che non servono a nulla. Cioè, okay, in mostra devi dare un quadro sintetico. L'appassionato vero poi andrà a comprare il catalogo e troverà tutte le informazioni che necessita. Certo, mi sembra un po', non so se ti capita, immagino ti capita anche di fare conferenze, sì, e non so se fai utilizzo di PowerPoint, che l'altro cosa è un amico, tra l'altro si trova in ebook, Davide Mann ha pubblicato un ebook Come sopravvivere a PowerPoint, in realtà smonta tutta una serie di luoghi comuni su PowerPoint, per cui tu devi riempire queste slide di testo, ma se riempi le slide di testo le persone leggono il testo e non guardano te, non, certo, ascoltano te, certo, quindi credo che sia qualcosa, è un percorso un po' simile, l'eccesso di parole. Siamo una civiltà che eccede un po' con le parole quando in realtà ci servirebbero più immagini. Sì, sì, sicuramente sì, quello sì, anche se poi siamo bombardati dalle immagini, esatto, abbiamo centinaia di canali che non servono solamente a nulla, e quando, cioè dove c'è veramente la qualunque, come si dice, e mentre dei buoni programmi a volte è più difficile l'interessare. La difficoltà quasi sempre utilizzare l'immagine per produrre senso, ci siamo un po', sì, abbiamo un po' perso questa elasticità. Sì, questo sì, beh, l'immagine comunque è fondamentale. Devo dire, abbiamo anche attraversato un periodo minimalista in generale, qui parliamo proprio a livello di comunicazione, okay, no? E, che in qualche modo è stata l'antitesi del Liberty, sì, cioè per cui è un percorso, no? Un percorso che non è né evolutivo né involutivo, è un percorso che va avanti e probabilmente si tornerà probabilmente presto anche a una ricchezza diversa dell'immagine. Beh, credo che di per sé ci sia un arricchimento della comprensione, la crescita dello stesso, il motivo stesso per cui siamo qua a parlare di fumetto, cultura pop, che ci sono inventati anche la parola graphic novel per farlo, certo, per nobilitarlo, quando in realtà è la stessa cosa. Sì, come di Sergio fatto, Bonelli sì, una volta qua a Torino, credo, a una conferenza alla scuola Holden, disse: se io avessi saputo che mio padre faceva graphic novel, anzi lui l'aveva detto anche in maniera graphic novel, è la stessa cosa, serviva un termine più nobile per definirlo. Sì, sì, in qualche modo sì. Hai citato Sergio Bonelli, che tra l'altro è stato un amico, l'ho conosciuto, persona straordinaria, di cultura immensa, e tra l'altro di grande simpatia, cioè lui era uno, amava moltissimo, cioè tu immagini lui e lo vedi appunto legato alla sua casa editrice, per cui certo, tutto quello che riguarda avventure eccetera, ma era anche un grande amante delle cose umoristiche. Ah, ok. Quindi infatti adorava Iacovitti, per esempio. Caspita. E tu, tra l'altro, Iacovitti, hai curato una mostra qui a Torino? A Torino, sì, per il Museo dell'Auto nel 1998, insieme alla figlia Silvia, quando era mancato suo padre da un anno. Abbiamo messo in piedi, diciamo, una grande antologia su Iacovitti, che non era mai stata fatta una grande mostra su Iacovitti, che è buffo perché è stato uno degli autori più grandi e più conosciuti. Esatto. E partita da Torino e poi, devo dire, ha girato l'Italia per una decina d'anni. È stata una, ecco, questa è un'altra cosa a cui sono molto legato. Beh, come valorizzazione di un autore importante, penso che sia partita da Torino, che l'abbia curato, sì, tu, penso che sia già uno di quelle belle, quei bei soddisfazioni. Sì, sì, assolutamente. Certo, sì, certo, certo. E in quel ciclo c'erano anche altri autori di cui ti hai occupato? Sì, in quegli anni, poi questa è del 98, poi nel 2001, sempre al Museo dell'Automobile, insieme a Emilio Isca abbiamo messo in piedi una grande mostra su Peinet. Okay. Raymond Peinet, grandissimo disegnatore francese. I famosi innamoratini. I famosi innamoratini, ma non solo, perché poi Peinet, questa era la cosa più conosciuta, era un disegnatore, diciamo, ai limiti dello scollacciato, no? Per cui c'era il disegno della tettina della signorina sul palco, quindi era molto molto molto gradevole. Ah, okay. Poi grande illustratore, nel senso anche lui aveva realizzato i segni zodiacali, lavorava per le ceramiche, per cui ecco, l'idea di questa mostra era quella di far vedere Peinet a tutto tondo, quindi gli schizzi, tutte le cose, tutte le tavole preparatorie per il lungometraggio che poi aveva realizzato, Il giro del mondo degli innamorati, dove in qualche modo si diceva la regia di Fellini, ci aveva messo l'occhio ma non ci aveva lavorato più di tanto, però era molto amici, e quindi era molto bella. E poi la terza grande mostra è legata a un amico fraterno, che è Bruno Bozzetto, e nel 2005 siamo riusciti a organizzargli anche lì, devo dire, è detto da Bruno questo, quindi la più grande mostra che gli sia stata dedicata, e dove c'era tutta la sua carriera. E poi la cosa divertente lì è stata quella di far capire come si fa un cartone animato attraverso un percorso, cioè per cui partiamo dall'idea e metto le idee che lui aveva ancora del suo primo cartone animato, poi il personaggio e andiamo avanti negli anni e fai il personaggio, poi lo storyboard, poi l'animazione del personaggio, poi la colorazione, fino ad arrivare agli ultimi cartoni animati che fa ormai da solo in Flash, e quindi fai anche vedere come si faceva e come si fa oggi. Per cui era davvero didattica, e tutto attraverso uno che comunque ha lavorato per più di 60 anni in questo campo. Beh, tra i nomi dell'animazione italiana, non so se è il più importante, ma sicuramente uno dei più importanti. Sicuramente uno dei più importanti. Quantomeno poi ci saranno stati anche altri in team, eccetera, i vari Lanterna Magica, eccetera, però il nome che si associa è quello di Bozzetto. Anche è stato ha avuto delle nomination agli Oscar, sia a Berlino, anzi a Berlino ne ha vinto uno, ha avuto le nomination in America, è stato in classifica in America con Allegro non troppo, che rimane forse uno dei più grandi capolavori del cinema d'animazione del mondo. E quindi ecco, era molto bello, è molto bello lavorare con Bruno, perché è una persona straordinaria che controlla tutto lasciandoti fare tutto e impari moltissimo, perché interviene solo proprio dove dici quello è meglio che. E vuol dire assolutamente che era una cagata pazzesca che stai facendo, e quindi con grande garbo ti correggi immediatamente. Fantastico. E tra l'altro una cosa che mi è sempre incuriosito molto, anche tutta una serie di l'importanza di tutta una serie di da Super VIP a Western Sword, di questi film di animazione per l'Italia, ma anche come mai non ci sia poi stata un'altra generazioni in senso lato, altri autori di animazione, è quasi sempre legato a Carosello, cioè erano tutti autori formatisi su Carosello e poi divenuti professionisti dell'animazione. Tieni conto che negli anni di Carosello, intanto c'erano squadre incredibili di persone, tanto per darti un'idea, uno di quelli che facevano gli headline per le pubblicità di Carosello era Marcello Marchesi, che forse è stato uno dei più grandi umoristi che l'Italia abbia avuto. E scusa, un pochino più vicino. E che tra l'altro una battuta di Marchesi molto bella è che dice: lavoro da così tanto tempo, perché ho iniziato giovanissimo pubblicando su Bertoldo delle cose, dice che quando la gente mi incontra in giro dice: io leggevo le cose di suo padre, invece era sempre lui. E quindi ecco, per dire, Marcello Marchesi, ma poi grandi attori dell'epoca e poi animatori incredibili come Osvaldo Cavandoli, che poi ha inventato la linea proprio per Carosello, e Bruno Bozzetto faceva l'Ariello e poi tantissime altre cose, e Marco Biassoni che fu l'ideatore di Arriva Lancellotto, succede un 48 per la Gran Pavesi, e poi i fratelli Gavioli. Cioè, i fratelli Gavioli avevano proprio, diciamo, una struttura molto grande con un centinaio almeno di animatori e realizzavano questi caroselli bellissimi, da Caio Gregorio guardiano del pretorio al cavallino derby, cioè, hanno realizzato delle cose bellissime, devo dire, cose che non soltanto le ricordo, se vuoi, con nostalgia per l'età, ma credo che anche chi non le abbia viste all'epoca e le rivede oggi le trova ancora molto fresche e molto divertenti, quindi un bel modo di comunicare. Penso di sì, adesso non vorrei, adesso poi fuori onda tiriamo una moneta se continuare a parlare di questo o parlare d'altro. Quello che vuoi. Però di per sé non vorrei fare una puntata troppo all'insegno del passato, eccetera, però cavoli, c'è stata il carosello, gli autori che ne sono usciti, eccetera, è un bel pezzo di storia. E anche quella non si chiamava cultura pop, dovremmo chiamarla cultura popolare, sì. Però è comunque un frammento di immaginario italiano. Parlando di frammenti di immaginario, non so perché mi è venuto in mente questo pezzo, Spotify aiuta nel pescare dei brani così dalla mia memoria. Joan Osborne, una cantante negli anni 90, un pezzo che si intitola One of Us e fa più o meno così. One of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. Yeah. sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E John Osborne, non parente del più celebre Ozzy, non parente, ci ha accompagnato in questo martedì nebbioso di inverno che vuole essere già primavera, però se saltiamo l'inverno per i piari, secondo me siamo fregati. C'è una vignetta molto divertente sui TED che avevo notato, sulla sintesi, l'importanza. I TED sono queste conferenze online su TED.com. Mm. E un vignettista che si è interrogato sulla causa della variazione climatica e aveva detto: come faccio a riassumere in una sola battuta l'intera questione, visto che c'è molto negazionismo anche sulla questione climatica? E la battuta geniale era: ma e se ci fossimo sbattuti, ci fossimo dati da fare per ripulire l'atmosfera, per ridurre l'inquinamento? Per niente. Ed è un po' la gag, e fosse tutta una fregatura. È carina, molto carina. Credo che debba passare, e la sintesi, riuscire a trovare un messaggio del genere, quel messaggio lì, poi a maggior ragione poi in tempi di Facebook, che adesso vedi l'immaginetta, eccetera, è molto importante trovare quella sintesi. È un percorso arrivare a quella sintesi, sì. Immagino. No? Su questo poi è un maestro davvero Altan, perché Altan nel suo genere, no? Poi sì. ognuno ha il suo, ma Altan ad esempio, quando si fanno queste mostre anche collettive, okay. Troverai sempre, cioè lui altanizza la realtà, nel senso che Altan va sempre da un'altra parte, dove tu puoi stare lì 2 ore a pensare, 3 ore su un disegno, non ti verrà mai in mente quella di Altan. E mi viene in mente, adesso parlavi anche dell'informazione, okay. No? Di queste cose. Allora, dato che deve essere, l'informazione deve essere sempre gridata, deve essere sempre la fine del mondo, deve essere okay. sempre l'anno dove è il più caldo degli ultimi 100, cioè c'è questa esatto. cosa. Esatto, è talmente urlata che praticamente non sentiamo più niente, esatto. Perché tanto se è sempre la cosa più alta, il volume è sempre qua. Esatto, e allora lui aveva fatto già qualche anno fa, quando i giornali erano ancora lenzuola, per cui erano le colonne, no? Il caporedattore che va dal direttore, cioè preoccupatissimo, dicendo: direttore, oggi non è successo niente. E allora lui ci pensa un attimo e dice: titoliamo a 9 colonne, tragico nulla, perché deve essere comunque tragico. E allora questo era male, un po', questo è un male. Po', ecco, e Altan è proprio bravo su questo, nella condensazione è veramente bravissimo. Beh, l'artista sviluppa la sua, è quello che, dicendo una parolaccia in termini scolastici, è la poetica, sì. Cioè il proprio linguaggio, il proprio personale modo di dire le cose, il grande artista è questo. Poi invece, per esempio, Giorgio Cavallo, e cito appunto una persona a me molto cara, no? Giorgio è stato un po' uno dei miei maestri veri, e Giorgio Cavallo invece era specialista nel calambur. E anche lui riusciva a fare il gioco di parole là dove altri non riuscivano. Mi viene in mente ai tempi di Maradona, quando Maradona venne acquistato dal Napoli e pagato, cioè, miliardi dell'epoca, e lui venne in mente di fare San Gennaro, cioè per cui c'era l'immagine di Maradona vestito da San Gennaro pieno di soldi ed è, ecco, anche lì è fulminante. Sì, quell'unione tra due elementi, però in maniera... Sì, e qui giocando sulla parola, quindi sono modi diversi proprio, no, di fare umorismo. Quindi in realtà ormai si inventano i mashup gli americani e fanno uscire adesso Pride and Prejudice and Zombies, che è la versione con zombie di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, uscirà in sala il mese prossimo, ma di per sé... Sì. Cioè... La fusione di elementi, la reinvenzione, qualcosa che è vecchia come il mondo. Ah sì, sì, sicuramente. E tu hai un'esperienza di qua e al di là delle Alpi. Mi raccontavi che sei stato intervistato da France 3, sì. In questi giorni. Sì, l'altra settimana, sì. Ok. E tra l'altro credo che l'argomento, poi in Francia è stato piuttosto scottante il discorso... Della redazione di Charlie, esatto. Cioè lo sterminio, diciamo, della redazione di Charlie. Esatto. E infatti, cioè, mi hanno chiamato insieme a un collega francese, Pierre Balloway, per diciamo ricordare ciò che è successo a un anno di distanza. E purtroppo ricordato in modo molto fresco il 13 novembre dal Bataclan, cioè da tutto ciò che è successo intorno al Bataclan a Parigi. E, in Francia. Tieni conto che gli autori anche poi si conoscono molto, hanno anche festival, per cui gli autori non sono soltanto autori conosciuti sul giornale, ma per lo stesso disegnatore sono amici, per cui sentivo parlare Pierre e ha perso proprio dei cari amici. Io avevo conosciuto Volinsky tanti anni fa in Francia, appunto ad un festival, conoscevo Charb, invece non conoscevo Cabut, Gnussi e Honoré. Questi sono i cinque autori. Poi in realtà noi parliamo sempre dei cinque disegnatori, ma è stato ammazzato il correttore di bozze, esatto, che peraltro era musulmano, esatto, sono stati ammazzati due giornalisti, è stato ammazzato il direttore di Clermont-Ferrand, il direttore di questa mostra sul carnet de voyage, che era lì per ridare dei disegni a Cabut. E purtroppo è andato quel giorno, mentre un altro Lutz, che era dal dentista, si è salvato, ecco, per dire, per cui poi veramente i casi della vita su questo. Sì. Beh, la Francia è comunque in stato di guerra, effettivamente, solo la dogana, sono stato fermato, per me giustamente sono stato fermo un quarto d'ora per il controllo dei documenti, e quindi in qualche modo sta andando in controtendenza, no, con il trattato di Schengen, in qualche modo forse si garantisce un po' di più la sicurezza. Sì. Vedi effettivamente che c'è una militarizzazione un po' forte. Poi il dubbio, e se ne ragionava appunto con gli amici giornalisti, è far sì che questo non diventi poi un controllo al di là di, perché poi non sai mai dove si va a parare. Credo che il presidente Hollande sia un buon presidente e che si sia trovato forse in un momento molto delicato della situazione francese. Però bisogna vedere, coloro comunque sono molto attenti, hanno una libertà per certi aspetti diversa, cioè la domanda che ci si poneva, perché Charlie esce in Francia e non in Italia? A prescindere che piaccia o meno, io poi, certo, sono un lettore di Charlie, ma io dirigo Boudoir, che è un mensile online di vignette, fumetti, satira, e non metterei le vignette di Charlie, ne parlo per cronaca. Però a prescindere, perché esce Charlie in Francia? Perché non c'è il reato di blasfemia, non è previsto, mentre da noi in Italia nel codice penale sì. Per cui ci sono anche delle cause, no? Storicamente la Francia per certi aspetti vive una libertà differente. Su questo, insieme a Thierry Vissol, il rappresentante in Italia della Commissione Europea per quello che riguarda la comunicazione, abbiamo pubblicato un volume, un volume online gratuitamente, fatto apposta dalla Commissione perché venga distribuito gratuitamente, proprio sulla libertà di espressione in Europa, con punti di vista di disegnatori, con delle vignette, con dei commenti, ma anche con giuristi che spiegano un'altra parte, con persone, diciamo, all'interno di quello che è il mondo istituzionale, per dare un quadro e cercare di fare anche un ragionamento, no, su quello che è la libertà di espressione, cosa fondamentale che va difesa fino alla fine, sempre e comunque. Dai qualche coordinata spazio-temporale sia del tuo sito, cioè web, sì, le chiamo coordinate spazio-temporale perché sono un nerd, sono... irrimediabile, allora, sia di Boudoir che poi mi pare che sia scaricabile gratuitamente, tra l'altro, questo sul testo invece sulla libertà di espressione. Sì, allora, quindi questo è scaricabile, vabbè, sia sul sito della Commissione Europea, che però adesso non lo ricordo perché è lungo, se no, se volete lo trovate sul sito della mia casa editrice, che è www.ilpenninodinoaloi.it, tutto attaccato a una parola unica, il pennino di Noaloi. E nel link sulla pagina di Facebook ti sono solo nuvolette, quando ho annunciato la tua presenza oggi ho messo il link, quindi... Se siete distratti lo trovate anche lì. E invece Boudoir è come lo dico, non Boudoir, ma proprio Boudoir, www.boudoir.it. Ok. E questo è il giornale, usciremo a giorni con il numero 33. Okay. Lo curiamo poi fondamentalmente in tre, con Alessandro Prevosto e Marco De Angelis. E insomma è una faticaccia, perché sono più di 120 pagine ogni numero. Caspita. Però di grande soddisfazione, perché abbiamo modo di parlare proprio del nostro mondo, di quello che ci piace, contaminato da una realtà che a volte non ci piace, come ad esempio appunto la copertina su Charlie che abbiamo dovuto fare, fatta fare a un autore francese, ma dove poi il ritmo di quello di cui si parla è comunque chiaramente umoristico, cioè Boudoir dovrebbe essere un momento di rilassamento, senza perdere di vista anche aspetti storici, cioè per cui la vecchia rivista, il vecchio giornale, l'autore mancato tanti anni fa da ricordare, o anche semplicemente libri vecchi ma molto interessanti da riportare all'attualità per un'attenzione che poi a qualcuno può interessare. Ma quindi, pur essendo principalmente essendo online, ha comunque la formula del formato di una rivista, sì, sì, è concepito, con il conteggio di pagine, sì, sì. Con il PDF, con il file, quel plugin di Flash che ti permette di sfogliare, fatto, sì, in quella maniera, sì, okay. Anzi, abbiamo anche messo sotto il suono della carta, cioè come se tu stessi sfogliando proprio, cioè proprio assolutamente legatissimi alla carta. Ok, questo è feticismo. Questo quasi è feticismo, sì. È feticismo, vabbè. E parliamo ancora poi dell'altra tua versante di editore, così non riusciamo a coprire tutto perché ci sarebbe tantissimo, ma ogni quarto di trasmissione cerchiamo di coprire un aspetto diverso. Lanciamo la terza canzone, che non mi ricordo assolutamente cos'era, sì, perché l'hai suggerita tu, e quindi anche qui Chet Baker. Chet Baker, sì. E annuncia tu il titolo. Beh, My Funny Valentine è uno dei pezzi più belli nella versione di Chet Baker. È molto bello, io adoro questa tromba un po' malinconica e devo dire forse è uno dei più grandi esponenti di questo strumento, perlomeno okay, come gusto. Fantastico. Chet Baker, My Funny Valentine. My Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. E ultimo quarto di programma che corre maledettamente, questa volta per via anche della satira, forse la velocità delle battute della satira, dell'umorismo, ha velocizzato anche il programma. No, è una boiata, però ogni tanto qualcosa devo dire. Dino Loi, che è un piacere avere qua, e dicevamo, abbiamo toccato vari aspetti, siamo stati anche stranamente seri su un argomento importante come è stato Charlie Hebdo e la strage. Troppo, sì. Un'altra tragedia è finire a fare l'editore. Sì, assolutamente. Come sei finito? Il Pennino e la tua casa editrice. Dino, come sei finito e perché mai sei finito a fare l'editore? E per passioni, cioè sono quelle robe che ti fregano nella vita. Cioè, ok. Allora, già, tra le passioni, poi fondamentalmente, cioè tutte lecite, non ti preoccupare. Sì. Allora, una era quella proprio per il disegno e quindi cominci a fare il disegnatore. L'altra quella per la storia e per le vignette e quindi cominci a fare il collezionista. E poi facendo le mostre, organizzando varie manifestazioni, beh, inevitabilmente vai a finire a fare anche l'editore, perché poi ti piace dare un'impronta e far sì che quello poi proceda nel tempo con una certa linea. Certo, un disastro fare l'editore, però è molto divertente. Ma il Pennino è perché comunque c'era un'autorialità anche nel fare l'editore? O c'era un altro motivo dietro la scelta di questo nome? No, allora, guarda, nasce nell'87 come il Pennino d'Oro, perché ero più presuntuoso forse. Poi nel 92 ho creato la società che è rimasta il Pennino, ma proprio perché è legata, cioè il Pennino in qualche modo è un simbolo, un emblema di quello che riguarda tutte le varie attività, sia quell'autorale che poi l'ho scritto, piuttosto che la mostra o il catalogo, o l'editoria, quindi in qualche modo è riassuntivo, ecco, mi piaceva come termine per questo. Certo. E c'era un motivo, c'è stato il primo libro per cui hai scelto di pubblicare e poi è cambiata un po' la direzione nel corso del tempo? Ma no, in realtà cambiata no, per fortuna si è allargato l'orizzonte, nel senso che dai primi libri molto piccolini, anche proprio quasi clandestini, sono riuscito poi a fare dei grandi volumi, appunto, di mostre sulla storia, quindi molto anche belli, corposi, diciamo, da questo punto di vista. E il primo, no, è stato un omaggio a mio padre e mia madre, nel senso che mia mamma era la presidente della Lega del Gatto, e quindi sulla base di questo abbiamo pubblicato una sorta di agenda di vignette raccolta con vignette sul tema dei gatti, quindi okay. Ecco, nasce così. Cioè all'inizio cercavo di capire una linea, ed era quella di ragionare più vicino possibile. Quindi ecco, questo mai è stata, per dirti, sì, un atto di affetto nei confronti dei miei, e poi ho cominciato invece già a pubblicare altri autori che erano nel frattempo molto amici, perché le mostre le organizzavo già da tanti anni. Ok, infatti la pubblicazione, il catalogo è un passaggio legato alla mostra, quindi sì, dove ecco, parte... io cerco di non faccio mai il catalogo della mostra, okay. Ma faccio un libro. Okay. Nel senso che allora è chiaramente in qualche modo riassuntivo di quello che c'è in mostra, ma in realtà ha proprio un percorso e un'autonomia sua. Cioè è un libro, come dicevamo prima. Okay. Allora all'interno del libro ci sono tutti i commenti critici degli esperti. Sì. Quindi di fatto sì, ci sono le immagini della mostra, se possibile anche ampliate nel volume, e poi con i commenti, ecco, questo che è quello che lo rende effettivamente un libro autonomo. Cioè... E quindi sono i due pubblici, nel sì. senso, se hai meno tempo guardi solo la mostra, esatto. Se vuoi approfondire allora a quel punto lì c'è il libro. Vai sul libro, sì. Ok. Ecco, questo è un po'... E però c'è qualche catalogo di mostra che poi è diventato libro di cui sei particolarmente fiero? Qualche... No, perché in genere sono rimasti all'interno, comunque sì, sono molto fiero di tantissimi, devo dirti. Dovrei fare ringraziamenti infiniti, per esempio al Consiglio regionale del Piemonte, che da anni mi segue in mostra e anche, cioè, non di facilissimo impatto. Per esempio nel 2010 avevo realizzato la mostra sul 150enario dell'Unità d'Italia, e partendo dalle vignette realizzate, quindi partiamo prima dal 1848, come dicevamo, con Cavour visto al suo tempo. Okay. E per cui è anche impegnativa da questo punto di vista. E devo dire invece poi è stata premiata l'iniziativa, perché l'abbiamo fatta all'Archivio Storico, sono andate moltissime scuole, per cui era proprio quello che volevamo come obiettivo. Poi col Consiglio abbiamo realizzato altre mostre, come per esempio la donna immaginata, l'immagine della donna, che è una mostra su come viene vista la donna nella vignetta umoristica, prevalentemente disegnate da uomini, sì. Però abbiamo trovato anche le vignette disegnate da donne, per cui diventava anche una sorta di manifesto del costume dell'epoca, costume inteso anche come moda, no? O costume da bagno proprio, però anche costume di per quello che riguarda la mentalità. Poi mostra su Casimiro Teia, Matite di guerra, che è la grande mostra sulla Prima Guerra Mondiale. Insomma, sono tanti, ecco, sono tutti, diciamo, volumi che permettono di approfondire dei percorsi e a cui sono legato. Matite di guerra è uno dei più recenti, giusto? Sì, 2014, okay. Sì, 2014. In centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale? Esatto, sì. Ok. E c'è qualche riguardo alle... perché quasi sempre c'è tanta iconografia di guerra che viene riproposta. Sì. Invece c'è un taglio diverso che sei riuscito a dare con questa mostra, su qualcosa che magari tu stesso non ti aspettavi nel momento in cui poi hai ricostruito il percorso? Allora, non mi aspettavo di avere così tanto materiale. Okay. In realtà parte proveniente dalla mia collezione, parte da altre collezioni di amici. Di amici che la mettono a disposizione per questo tipo di mostre, c'è davvero tantissimo, per cui per una mostra di quel tipo che dà uno sguardo internazionale sull'Italia, sulla Francia, sulla Germania, qualcosa sulla Spagna, qualcosa sull'Olanda, il problema principale in quel caso di un curatore è quello di andare a mettere appunto meno elementi rispetto a quelli che ti verrebbe voglia di mettere subito, perché certo. Ci sono delle cose talmente belle, autori talmente importanti, che vorresti fare, davvero vorresti fare l'enciclopedia. Sì. Quindi la difficoltà che trovo è quella. E sì, devo dire, ecco, forse è la prima mostra, aveva fatto qualcosa Jack per il cinquantennale. Questa è la prima mostra che dà questa visione ampia, e proprio lavorando sui materiali dell'epoca, per cui credo che sia molto interessante. Mi ha stupito la ricchezza di materiale. Ricchezza di materiale che mi porta a lavorare tuttora su una seconda mostra sulla Grande Guerra, che sarà però dedicata, avrà come perno centrale la figura della donna. Per cui sempre con uno sguardo internazionale, però come è vista la donna? Allora troviamo la donna che fa il profitto di guerra, la prostituta, la fidanzata, la moglie, l'amante, cioè tutta una serie di vignette che si sviluppano in quegli anni in cui è protagonista la donna che lavora, la donna che va a lavorare in fabbrica, la donna che fa la tranviera perché gli uomini sono al fronte, e stiamo parlando non soltanto in Italia, appunto in Germania accade la stessa cosa, per cui è molto interessante e mi piaceva questa idea e la stiamo sviluppando adesso per Asti, sarà prossimamente. E poi ti chiedo ancora qualcosa, visto che parliamo di progetti futuri, però mi interessava l'origine della maggior parte di questi materiali. Erano soprattutto riviste, soprattutto illustrazioni di altro tipo, manifesti? No, allora quello su cui lavoro io sono principalmente riviste. Ok. E tant'è che poi, questa è una curiosità, abbiamo fatto una catalogazione delle riviste uscite in Italia per una mostra Storia d'Italia nel Pennino della Satira, fatta nel 2006, un'altra mostra interessante. E abbiamo all'epoca avevamo conteggiato e catalogato 1200 testate. In questi 10 anni abbiamo trovato altre cose e saremo ad oggi a 1400. Quindi in Italia sono uscite 1400 riviste di satira e umorismo. Quindi tantissime, un numero impensabile. Quasi tutte dalla vita lunga o quasi tutte dalla vita breve? Quasi tutte dalla vita breve. Okay. Poche dalla vita molto lunga, alcune di vita intermedia, però diciamo principalmente pochi numeri. E alcune molto belle anche, certo, tra l'altro. E allora ecco, quindi io lavoro principalmente su quello che è da rivista, talvolta sul quotidiano, perché ad esempio Scalarini, che ha pubblicato qualcosa anche sui giornali, principalmente collaborava con il quotidiano L'Avanti. Allora le vignette le trovi appunto su, principalmente, certo, certo, su, certo. Esce un pochino, però non puoi parlare di satira senza parlare di Scalarini. Certo, certo, certo. E c'è qualche in questa o nella precedente, pezzi particolarmente belli che però hai dovuto escludere perché erano fuori dal percorso? Ti viene in mente un esempio? No, allora mi viene in mente per esempio Satana Beffa, che è un giornale che esce a Milano nel 1919, molto molto all'avanguardia sia come stampa che come bellezza di disegni e per qualità degli autori che lavorano. E beh, in questo caso purtroppo è nel 19, per cui non posso metterlo, anche perché per fortuna non parla più di guerra, no? Sì. Ma va già verso una rinascita, verso una moda. Curioso, poi stiamo parlando di un periodo in cui c'è il biennio rosso, per cui neanche poi così semplice, però un bel giornale. Sì. Ecco, Satana Beffa è qualcosa che poi ho messo in altre mostre comunque, per cui ci sono, così come degli autori, ci sono autori grandissimi dell'Ottocento che non puoi mettere nella mostra sulla Prima Guerra Mondiale. Secondo ovviamente. Me poi, tra l'altro, essendo pubblicazioni dell'epoca, ti mostrano anche altre facce di quel contesto storico. Quasi sempre noi tendiamo a vedere il momento di guerra, c'era solo la guerra, no, c'era anche altro, cioè come se adesso magari tra 20 anni penseranno a noi come il periodo del terrorismo eccetera, certo. Però la realtà è molto più sfaccettata e ricca. Assolutamente, ma per il linguaggio, l'evoluzione del disegno, l'evoluzione della stampa tipografica e la differenza con la stampa del tempo di guerra, perché sono molto diverse. Ma e poi le pubblicità, io trovo che quelle che si chiamavano reclam, che poi diventano pubblicità, siano geniali, perché c'è l'emorroidina, la sifilidina, cioè che sono farmaci ovviamente molto espliciti, cioè, okay, nel senso, per cui ecco, cioè, è anche divertente. Abbiamo fatto anche, sì, una mostra sulle pubblicità viste, no, in chiave umoristica, sì. Oggi fanno davvero sorridere. Però è bello vedere e contestualizzarle sempre in quegli anni. Ok, ok. Naturalmente c'è tantissimo, ci sarebbe ancora tantissimo da dire. Ci dice un minuto, è scattato in questo momento il termine dell'ora. Quindi però vorrei ancora chiederti, Dino Loi, qualche riferimento. Allora, intanto tu stai lavorando a questa mostra, sì, che sai già indicativamente quando sarai. Allora, dove? Dovrebbe inaugurarsi il 1 maggio ad Asti, all'Enofila. Ok. Ci sto lavorando con Claudio Mellana, che è un mio amico fraterno da sempre e con cui abbiamo curato tantissime mostre insieme, ecco, anzi non l'ho citato prima ma ne approfitto e lo cito qua. E poi sto lavorando già a una mostra che per il Consiglio regionale, che sarà proposta in autunno a Torino, per l'altra guerra, il periodo che va, diciamo, dal 39 alla Costituzione, perché è il settantennale del referendum monarchia-repubblica, okay, per cui lo contestualizziamo un attimo, parliamo di resistenza, parliamo di giornali usciti, diciamo, immediatamente dalla liberazione, parliamo del referendum monarchia-repubblica, un periodo interessantissimo con un grande fiorire di libertà di stampa. Ok, e c'è anche un libro di Marco Albertaro, che è un giovane storico, anche ricercatore dell'Università di Torino, che l'ha chiamata la parentesi antifascista. Eh sì, poi, cioè, sì, immagino, adesso non l'ho letto neanche tutto, però che poi ci sia stata una sorta di restaurazione per cui quella libertà del dopoguerra poi è andata via via riassottigliandosi. Poi c'era anche, voglio dire, c'era anche l'uomo qualunque, per cui di Giannini, per cui in qualche modo il fascismo c'era sempre, però era, sì, comunque era in un'ottica di libertà. Ma è bellissimo riguardo a questo argomento, per esempio, guardare, l'Italia era divisa in due, quindi al nord della Repubblica di Salò, al sud lo sbarco degli alleati, e vedere comunque come uscissero i giornali repubblichini a vignette, oppure già i giornali addirittura sponsorizzati dagli alleati. Molto molto interessante. Caspita, sarà sicuramente molto interessante, invitiamo a tenere d'occhio i vari aggiornamenti. La mostra al Consiglio regionale sarà comunque promossa, immagino. Sì, comunque tenete d'occhio il pennino di Noloi, che è il tuo sito, ci sono sempre le novità. Novità. Sono solo nuvolette questa settimana, chiude qua, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma magari facciamo una volta un bis, adesso vediamo se capita. Grazie a Filippo in regia, chiudiamo e diamo appuntamento la prossima settimana. Chiudiamo con un pezzo italiano di un pianista tutt'altro che secondario, chiamato Stefano Bollani, e il pezzo, ma più che altro perché abbiamo preso due bicchieri di vino a pranzo, quindi ci piaceva il titolo Vino Vino, Vino Vino, esatto, quindi questo. Vino Vino, Stefano Bollani.